deciso che non dirò niente di ieri sera. Ho deciso che il mistero sarà una tela e sarà nera. E nessuno in questa gabbia di Filistei saprà mai cosa diavolo è successo ieri. Perché nessuno qui è capace di vedere il paradiso e di battere i denti senza cambiare l'espressione del viso. E mi domando se sia giusto io lì così, all'improvviso, senza aver previsto, senza un preavviso. Inghiottire una così gigante intolleranza e strozzarmi dalle risa per quella dolcissima violenza. Credere per la vita di essere morto e poi risorto. Un tratto avere chiaro in testa, avere la certezza di essere intorto. Ho deciso che non dirò niente di ieri sera. Ho deciso che il mistero sarà una tela e sarà nera. E nessuno in questa gabbia di Filistei saprà cosa diavolo è successo ieri. Ho deciso che non dirò niente di ieri sera. E questa strana polca, neanche lei per questa reticenza andrà fiera. E se non lo dico all'uomo, non penso di essere meritevole di gogna, perché uomo lo sono anch'io e non ne provo vergogna. E vivrò tranquillo, lo giuro, in sto stretto, strettissimo inverno. E Pietro aprì la porta e mi gridò per la centesima volta: Stefano, tornatene all'inferno. E credere per la vita di essere morto e poi risorto. D'un tratto avere chiaro in testa, avere la certezza di essere intorto. Credere per la vita di essere morto e poi risorto. D'un tratto avere chiaro in testa, avere la certezza di essere intorto. E credere per la vita di essere morto e poi risorto. D'un tratto avere chiaro in testa.